Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora partiamo subito dai temi italiani, non solo per le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sulla riforma fiscale che si farà entro l'estate. Di riforma fiscale hanno parlato anche oggi la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, a margine della presentazione di un rapporto importante del Centro Studi Confindustria sulla classifica quanto a produzione industriale del paese Italia, di cui ci occuperemo domani. Tra l'altro il programma sarà in diretta da Santa Margherita Ligure, dove partono i lavori del 41esimo convegno dei giovani imprenditori, e parleremo con il presidente dei giovani imprenditori italiani, Jacopo Morelli. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa puntata, parleremo di riforma fiscale proposta però questa volta dai manager, varie categorie, gli industriali, i manager, i giovani imprenditori. I sindacati stanno avanzando in maniera, mi sembra più che altro costruttiva, al governo proposte per arrivare a una riforma fiscale a costo zero, e ne parleremo con appunto chi rappresenta i manager dell'industria soprattutto, quindi Federmanager. Come vanno le borse? Più 0,60% Milano, più 0,90% Parigi, più 1,40% Francoforte, più 0,80% Londra. L'America, lo 0,70% di rialzo, l'euro un po' ritraccia, ossia scende a quota 1,45-1,44,9. Chi va bene in borsa? Soprattutto la Popolare di Milano, più 3,34%, e poi Prismian, più 3,31%, Monte dei Paschi, più 2,5%, Fiat, più 2,32%, Pirelli, più 1,95%, Exor, più 1,95%, Fiat, più 1,80%, Enel, più 1,30%, Eni, più 1,30%, A2A, più 1,20%, Saipem, più 1,20%, come Autogrill. Finmeccanica, più 1,1%, c'è anche la relazione dell'ISVAP, ossia l'istituto, l'authority, come si chiama in gergo, che vigila sul mondo assicurativo. Anche di questo ci occuperemo, perché sono arrivate alcuni più che denunce, segnalazioni importanti appunto dal presidente dell'ISVAP Giannini, che ha rilevato una continua crescita dei prezzi nelle polizze RC Auto, più 6% il valore della raccolta nel primo trimestre, e più 4,5% fu il dato del 2010. Numeri che lasciano perplesso il presidente. Non funziona il bonus malus, ha detto Giannini, occorre fare presto una riforma. E poi sulle polizze per i mutui, le commissioni delle banche sono definite da Giannini abnormi. Di questo parleremo dopo i mercati. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. L'oro sale, primo rialzo dopo tre giorni, $1,536 l'oncia, il petrolio torna a $100 al barile, ma insomma ormai è settimane che assistiamo a movimenti tutto sommato tranquilli, movimenti non di strappo sia nell'oro che nel petrolio. Sono saliti invece i sussidi di disoccupazione in America a 427.000 unità, il deficit commerciale americano è calato a $43,7 miliardi, che vuol dire che un effetto dollaro debole nel deficit commerciale si registra. La Banca Centrale Europea, come vi hanno raccontato i nostri GR, ha lasciato i tassi invariati all'1,25%. E però, il numero uno ancora per poco, visto che sta per arrivare Mario Draghi. Jean-Claude Trichet ha fatto capire che a brevissimo, probabilmente già da luglio, arriverà un aumento dei tassi di interesse. The Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Considerando le informazioni disponibili, continuiamo a vedere pressioni al rialzo sull'inflazione, prevalentemente legate ai rincari dei prezzi energetici e delle materie prime. I dati giunti di recente confermano lo slancio positivo della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. I rischi sul fronte della stabilità dei prezzi sono in aumento. Di conseguenza, pensiamo che sia giustificata una forte vigilanza. Detto ciò, agiremo in modo fermo e determinato. Faremo tutto il necessario per prevenire ulteriori sviluppi sui prezzi che spianerebbero la strada a un aumento delle pressioni inflazionistiche. Rimaniamo determinati ad assicurare che le attese circa l'inflazione rimangano ancorate in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. La decisione di oggi sui tassi è stata presa all'unanimità. Circa le indicazioni che avrei dato pronunciando alcune parole, tra cui la nostra posizione di forte vigilanza, dico che significa che siamo in una modalità in cui potrebbe essere deciso un aumento dei tassi il mese prossimo, anche se non ci chiudiamo mai in decisioni precostituite. We are never pre-committed. Sì, non si chiudono mai, dice Trichet, in decisioni precostituite, però attenzione. L'espressione usata è un'espressione nel linguaggio della banca centrale che preannuncia, anticipa un rialzo dei tassi di interesse. E poi un po' di polemica interna alla banca centrale europea. Ricordate che la Francia, tramite quella che la donna che poi corre per prendere il posto di Strauss-Kahn come direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, mi riferisco a Christine Lagarde, aveva detto: beh, se Draghi diventa, visto che Draghi diventerà presidente della Banca Centrale Europea, l'italiano presente nel Consiglio, sia Lorenzo Bini Smaghi, lasci il posto a un altro, a un francese possibilmente. Oggi Trichet ha detto: guardate che tutti i membri del board, quindi del Consiglio della Banca Centrale Europea, hanno un mandato di 8 anni, e quindi anche Lorenzo Bini Smaghi, per cui uscirà quando scadrà dopo 8 anni, lascerà il suo posto, non certo prima e non certo perché lo chiedono i francesi, aggiungo io. Il rapporto dell'Economist sul nostro paese: l'Italia ha tutte le cose che le servono per ripartire, quello di cui ha bisogno è un cambio politico e di governo. Ne è convinto appunto John Prideaux, giornalista dell'Economist, che ha presentato lo speciale sull'Italia del settimanale in edicola Domani. Non farò l'errore di predire la fine di Berlusconi, ma arrivando qui, parlando con le persone, si inizia a sentire un'aria nuova, la fine di un'era. La domanda però è se l'Economist si occupi di economia o si occupi solo di politica, perché mi sembrano commenti soprattutto politici. Vedo molte domande al 349-238-6666 sull'RC Auto. Ne parliamo fra circa 20 minuti dopo la borsa. Ribadisco, oggi l'ISVAP segnala una crescita dei prezzi del 6% nelle polizze RC Auto nei primi 3 mesi dell'anno, dopo il 4,5% l'anno scorso. Visto che l'inflazione viaggia verso il 2,3-2,4%, siamo a tassi di crescita doppi rispetto all'inflazione. Partiamo dal rapporto sugli scenari industriali realizzato dal Centro Studi di Confindustria, perché da lì sono arrivate alcune notizie, ma mentre veniva presentato il rapporto, di cui poi ci occuperemo anche nella seconda ora, in cui sostanzialmente l'India e la Corea hanno superato l'Italia quanto a quota di produzione industriale, e il Centro Studi Confindustria ha fatto notare come la produzione sia calata negli ultimi 3 anni del 17% in Italia, che purtroppo la ripresa ha segnato una battuta d'arresto. Dicevo, accanto a questo sono arrivate intanto le dichiarazioni sia di Emma Marcegaglia e poco fa anche di Silvio Berlusconi sulla riforma fiscale. Allora partiamo proprio da qui, 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché il Centro Studi Confindustria segnala che nei primi sei mesi del 2010, la produzione industriale italiana ha frenato e siamo fermi ai livelli dell'estate di un anno fa, e cioè c'è stato un recupero, l'abbiamo detto, però un recupero non sufficiente, visto il calo che c'era stato nel 2009, e poi un recupero che si è fermato. Tant'è che appunto siamo distanti, siamo a un meno 17% rispetto al pre-crisi, rispetto all'estate del 2008. Tra l'altro i nostri imprenditori, segnala il rapporto di Confindustria, devono essere 3 volte più bravi degli altri per sopravvivere in un contesto competitivo così carente. La caduta nella produzione industriale italiana è stata doppia, in alcuni casi tripla rispetto ai concorrenti, e mi riferisco chiaramente alla Germania, ma non solo. Dopo il traffico sentiamo il commento di Marcegaglia, e Emma Marcegaglia sentiremo anche quello che è stato il commento di Silvio Berlusconi alla riforma fiscale, e poi sentiremo anche cosa ne pensano i manager di questa situazione e di questa tensione sulla produzione industriale. Hanno proposto oggi un insieme di cose, ripeto, tutte le proposte sono ben accette e tutte le proposte dovrebbero essere analizzate dal governo in questo momento, visto che Berlusconi ha annunciato che si arriverà alla riforma prima dell'estate. È la Marcegaglia sulla produzione industriale. Noi stiamo uscendo dalla crisi con meno bene, diciamo, degli altri paesi. Noi siamo ancora a livello di produzione industriale meno 17% rispetto ai picchi del 2008. La Germania, per esempio, è meno 4%. Però quello che noi oggi vogliamo dire è che bisogna avere grande attenzione al sistema manufatturiero in Italia. Oggi il sistema industriale italiano produce il 30% circa della ricchezza del paese, del benessere, dà lavoro a circa il 30% dell'occupazione generale, fa il 78% delle esportazioni, quindi è dimostrato che là dove c'è un maggiore tasso di industrializzazione c'è anche più benessere, c'è più PIL. Quindi bisogna avere grande attenzione al sistema manufatturiero, aiutarlo a essere più competitivo, quindi il tema delle tasse, il tema delle semplificazioni, il tema delle liberalizzazioni, i temi sui quali noi richiamiamo continuamente sono fondamentali. Certamente c'è un grande lavoro da fare anche da parte delle imprese, e oggi noi qui proprio ragioniamo anche sulle strategie, diciamo, delle imprese per essere più competitivi, quindi di aumentare la dimensione, di investire molto di più in ricerca e innovazione, internazionalizzarsi molto di più. E poi le tasse e i tagli che devono reggere queste tasse, perché insomma è chiaro a tutti che se vuoi ridurre le tasse devi tagliare da altre parti, se no saltano i conti pubblici, sempre la Presidente di Confindustria. Quello che noi chiediamo è che comunque ci sia anche una riforma fiscale a parità di pressione fiscale, cioè una riforma fiscale che abbassi le tasse sulle imprese e sui lavoratori, che sono coloro che tengono in piedi il paese, aumentando magari di qualche aliquota all'IVA, aumentando la tassazione sulle rendite finanziarie, facendo una lotta all'evasione fiscale. Quindi ci sono secondo noi elementi per poter anche a parità di pressione fiscale abbassare le tasse su chi appunto tiene in piedi il paese, cioè industria e i lavoratori. Noi abbiamo sempre pensato che ridurre la spesa pubblica e avere i conti in ordine è un elemento importante e fondamentale, quindi noi pensiamo che fare la manovra sia necessario, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono i mercati finanziari. Ovviamente non possiamo farlo facendo i cosiddetti tagli lineari, cioè andando a tagliare tutte le singole voci nello stesso modo. Noi pensiamo che bisogna tagliare i costi della politica, bisogna ragionare sulla pubblica amministrazione, su alcuni costi del welfare, e dobbiamo invece investire in ricerca, in innovazione, in infrastrutture materiali e immateriali, che sono quelle che possono dare una spinta alla crescita. Poi della classifica stilata oggi dal Centro Studi Confindustria sulle quote di produzione industriale a livello mondiale, ripeto, ci hanno superato India e Corea del Sud, ma restiamo il secondo paese in Europa dopo la Germania, e anche sulla classifica italiana della vocazione industriale nel confronto europeo provincia per provincia. Segnalo che la prima italiana è Lecco al 61esimo posto, la prima in assoluto in Europa è Wolfsburg, dove si produce la Volkswagen, e l'ultima in Italia è Agrigento al 1223esimo posto. A di questo parliamo dopo, perché ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento il presidente di Federmanager, Giorgio Ambrogioni. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, poi sentiremo anche Berlusconi sul fisco. Tutti dopo le amministrative hanno scoperto l'importanza della riforma fiscale, ben venga. Dei tagli non lineari ma mirati, lo chiede la Banca d'Italia, lo chiede la Confindustria, magari arrivassero. Anche voi oggi, in un convegno dal titolo Un progetto di riforma fiscale per il Paese, voi rappresentate 84.000, sono i dirigenti italiani, no? Più o meno. Quelli industriali. Quelli industriali. Perché ma la nostra proposta dà voce ben di più. Mm. Nel senso che la nostra proposta è stata condivisa da tutti i dirigenti aziendali del commercio, delle banche, delle assicurazioni e anche i dirigenti del mondo pubblico, quindi una parte importante della classe dirigente di questo paese. Ecco, allora ce la racconti questa proposta, visto che riguarda, diciamo, tutta la parte dirigenziale. Una precisazione, come sempre quando parliamo con i manager, non facciamo l'errore di confondere i manager con i top manager. Manager sono persone che hanno anche stipendi normalissimi. Perché so già che mi arriveranno alcuni messaggi, quindi anticipo gli ascoltatori. Ambrogioni, si fidi. Li conosco. Ogni tanto questo... non stiamo parlando dei top manager e dei bonus milionari, stiamo parlando di manager normalissimi, con bonus normalissimi, con stipendi normalissimi. Allora, la vostra proposta. Dunque, intanto devo dire che noi condividiamo la valutazione poc'anzi espressa dall'autoressa Marcegaglia. Allora, questo paese ha bisogno di tante riforme, ma per noi la madre di tutte le riforme è quella fiscale, perché bisogna ricostruire il rapporto fiduciario tra cittadino e Stato. Questo è il punto di partenza. Noi siamo entrati un po' nel merito e abbiamo detto che intanto bisogna che il fisco tenga conto dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nel mondo del lavoro. Intanto occorre incentivare fiscalmente tutta quella parte di distribuzione senza tetti legata alla nuova produttività, alla partecipazione agli utili, quindi al rischio di impresa dei lavoratori. Questo penso sia un dato importante. Cioè lei dice, prima cosa, no, così faccio capire a tutti, prima cosa, dare dei vantaggi fiscali a quella quota variabile del salario che è legata alla produttività, non quella fissa, ho capito bene? Esattamente, esattamente. Senza tetti, perché oggi c'è un tetto troppo basso. Mm-hmm. Seconda proposta, si chiede sempre di più alle categorie dei lavoratori e al mondo delle imprese di operare in una ottica di sussidiarietà. Tradotto, i contratti si occupino sempre di più di previdenza, di assistenza, di mercato del lavoro e di formazione. Mm. Benissimo, è giusto così, ma la sussidiarietà va aiutata fiscalmente, come avviene in tutti i paesi del mondo. In questo paese questo non avviene, si chiede ma non si incentiva. La previdenza è un caso. Quindi voi dite ai contratti aziendali viene delegato sempre di più il ruolo anche di stabilire aspetti, diciamo, che una volta erano di pertinenza statale pubblica. A questo punto dateci almeno dei vantaggi fiscali. Che significa che cosa concretamente? Ridurre il cuneo fiscale, Ambrogioni? Esattamente. Mm-hmm. Per esempio alzare anche i tetti oltre il quale i contributi ai fondi di previdenza e di assistenza diventano reddito tassato pienamente, per esempio. Mm-hmm. La terza cosa è che dobbiamo rimodulare la curva del fisco, tenendo conto che noi dobbiamo incentivare e privilegiare i giovani, quindi una tassazione più bassa sui giovani, una tassazione decisamente più alta quando uno è nella piena maturità del mondo del lavoro, e poi tornare a scendere per quanto riguarda gli anziani e i pensionati. Quindi una tassazione, diciamo, anagrafica. A parabola. A parabola. Esattamente. Queste sono, secondo noi... Se mi scusi, Ambrogioni, solo una cosa. Siccome già la tassazione media per chi lavora è alla mia età, o la sua, è al 47, 48, no, 43 come aliquota, poi sappiamo che la pressione complessiva è ben più alta. Certo. Ridurre i giovani, ridurre quando uno è pensionato e aumentare la fascia in mezzo, cosa vuol dire? Che saliamo al 50, al 52, al 53? Non ho parlato di aumentare al centro. Mm. Anche lì occorre ritoccare e si può fare. Oggi noi abbiamo dimostrato che ci sono tutti i margini per ridurre, anche nella parte più alta, incidendo dove? Noi abbiamo dimostrato al tavolo del professor Giarda che con una gestione più manageriale della pubblica amministrazione, attraverso sistemi di controllo incrociato della spesa pubblica, si può veramente abbattere il livello della spesa improduttiva. Noi teniamo insopportabile un tasso di evasione fiscale che è quello che è, un costo della corruzione, dell'illegalità che è da 60 miliardi di euro all'anno. E quindi no, ma io colgo, cioè questo programma che avrà molti difetti, però anche a mio avviso il pregio di cogliere diversi settori, strati dell'ambiente produttivo italiano e vedere che in contemporanea i sindacati, la Confindustria, la Banca d'Italia, i manager, cioè il mondo intero delle categorie produttive sta chiedendo al governo una riforma fiscale, è interessante. Poi adesso non è detto che verranno adottati tutte le vostre richieste, ma è importante vedere come nelle varie categorie produttive il tema in questo momento sia una pressione fiscale da rimodulare, perché Ambrogioni, lei sarà d'accordo che non si possono diminuire, non può calare il gettito fiscale in questo paese, sennò andiamo a gambe all'aria tutti quanti. Non c'è dubbio, ma però noi chiediamo una linea di partenza, una tendenza, vogliamo capire dove vuole andare il governo. Ma questo vorremmo capire anche noi. Ho chiesto oggi ai rappresentanti del Parlamento e del Governo coraggio, scelte coraggiose. Purtroppo ho percepito che il contesto politico attuale li sta portando ancora una volta a non decidere. Beh, vediamo, adesso sentiamo. Guarda, visto che dice così, le faccio sentire cosa ha detto Berlusconi sulla riforma fiscale, però mi dica solo una battuta, lei invece sulla tassazione dei guadagni da investimento finanziario, cioè delle rente finanziarie, quindi da guadagni da patrimonio, non sul patrimonio, ma dall'investimento in azioni, bot e quant'altro, fermo restando che vale solo per chi tiene troppo poco l'investimento, meno di un anno, meno di sei mesi. Sarebbe d'accordo o no? Visto che ma sulla speculazione non si può fare fermi assolutamente a guardare. Non c'è dubbio. Perché è un po' bassina il 12,5% in questo momento. Ma figuriamo, i dirigenti che io rappresento non sono possessori di rendite di capitali di chissà che cosa. E loro pagano il 43, immagino, sulla aliquota molte volte, no? Ma non c'è dubbio, te capisci che i dirigenti che rappresento io hanno una retribuzione media, compresa la parte variabile, di 120.000 euro annui lordi, che diventano 60.000 netti. Certo. Questo è il mondo che io rappresento. E quindi anche voi d'accordo nel dire un po', tassiamo un po' più i guadagni da capitale di chi non è cassettista, cioè sì. Ma anche su certe aliquote IVA si può intervenire. Anche su certe aliquote IVA, vedo che, e mi sembra che il governo voglia muoversi in questa direzione. Comunque, Berlusconi sulla riforma fiscale. Ne abbiamo ripetutamente parlato in termini molto rispettosi e civili. Sono del tutto destituite di fondamento le notizie date dalla stampa, una stampa che per quanto riguarda la politica ormai si è completamente allontanata dalla realtà, e siamo d'accordo che ci sarà la legge, che il governo produrrà la legge delega per la riforma del fisco prima dell'estate, della pausa estiva. Me la faccia fare una battuta, Ambrogioni, per carità, la stampa, come dice Berlusconi, si sarà allontanata dalla realtà. A me sembra che anche la classe politica si sia allontanata dalla realtà, oltre che la stampa, però vabbè. L'annuncio c'è, ancora da riempire di contenuti, mi sembra. Mi dica solo una cosa, tra 2009 e 2010 circa il 10% dei vostri associati è uscito, cioè ha perso il lavoro, è uscito dalle imprese. Come è andato invece, come sono andati i primi sei mesi di quest'anno per i manager? C'è una ripresa, devo dire che c'è una ripresa, una buona notizia. In particolare nelle medie imprese e nelle imprese che per fortuna esportano, quelle imprese più internazionalizzate. Ed è per questo, Barisoni, che io insisto molto nel dire bisogna lavorare affinché sempre più piccole e medie imprese accettino l'apporto di manager esterni alla famiglia. Vabbè, questo è un tema sulla competitività d'impresa più che diciamo, sulla contingenza attuale. Le faccio anche ascoltare, perché c'è appena arrivato, anche le parole del Presidente del Consiglio sulla manovra. Allora, noi abbiamo promesso all'Europa che entro il 2013 portiamo il deficit allo zero, il che significa 40 miliardi di euro di manovra, 35-40, dipende come andrà il PIL, è ovvio che è un rapporto, quindi se il PIL cresce un po' di più saranno un po' meno miliardi di manovra. E Berlusconi ha negato: per il 2012 non vi sarà una manovra da 33 miliardi, in effetti il governo ha tempo, diciamo, entro il gennaio del 2014, sarà solo di 3 miliardi, se ho ben capito. Non si tratta di nulla di preoccupante, si tratta di aderire all'indicazione che la Commissione europea ha proposto al Consiglio dei Capi di Stati di Governo, che i Capi di Stati di Governo hanno valutato positivamente, di portare i nostri bilanci in pareggio entro il 2014. Dobbiamo fare nei prossimi anni esattamente quello che abbiamo fatto nel 2008, nel 2009, nel 2010, con un intervento che non raggiunge il punto di PIL. Quest'anno, prima dell'estate, credo che interverremo con un'opera di manutenzione del bilancio di quest'anno, che sarà di qualche miliardo, probabilmente intorno ai 3 miliardi, e poi provvederemo negli anni a venire sempre con gli stessi interventi che abbiamo già prodotto negli anni prossimi. Quindi non c'è nessun allarme, non c'è nessuna controversia all'interno del governo, ne abbiamo pacatamente discusso, sappiamo anche già dove andare a trovare i risparmi necessari e affrontiamo la situazione con la massima serenità. Allora, anche qui ribadiamo quello che è l'accordo preso con l'Europa e che ricordava il Presidente del Consiglio: portare entro il gennaio 2014 il deficit a zero. Attualmente il deficit viaggia intorno al 3,3%, ogni punto di PIL sono più o meno 14 miliardi, immaginando anche che il PIL cresca un po' più di come non sta crescendo adesso, 14 per 3 più o meno fa a casa mia, o 15 per 3 che fossero fa 45, fossero 42, con un PIL un po' migliore si arriva a 40, vogliamo scendere a 38, insomma questo è l'ordine di grandezza, lo dico perché se fai 3 miliardi adesso, poi gli altri 30, 34 li devi fare nei prossimi anni. Grazie al Presidente Federmanager Giorgio Ambrogioni, meteo, poi pubblicità e poi anche la borsa, e l'ISVAP sulle polizze RC auto, e il tema del fisco e soprattutto anche il tema della produzione industriale di questo paese. ...17.42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e adesso la borsa. Poi torniamo sui temi anche di carattere nazionale, cerchiamo oggi di rispettare anche gli appuntamenti, più 0,55% Milano, meglio hanno fatto Parigi più 1%, Francoforte più 1,41% e Londra più 0,70%. Perché? Perché nonostante molti buoni andamenti, penso alla Popolare di Milano, a Fiat, a Monte dei Paschi, a Fiat Industrial, a Pirelli, ci sono alcuni bancari che hanno pesato sull'indice. E nel caso specifico Mediobanca più 3,5%, Azimut meno 2,40%, Fondiaria meno 2,14%, Diasorin meno 1,33%, Banco Popolare meno 1,24%. No, sorrido perché sul tema della manovra correttiva che deve portare entro il 2014 il deficit allo zero, un ascoltatore dice: faranno 3 miliardi nel 2011 di manovra, 3 miliardi nel 2012, 3 miliardi nel 2013, poi 30 miliardi nel 2014, dopo le elezioni in sostanza. Lo so, fare le manovre correttive sui conti pubblici sotto elezioni non è mai stato, diciamo, un film conosciuto da nessun governo, devo dire. Molto difficile fare manovre correttive e chiedere lacrime e sangue quando si va a elezioni. Comunque, la borsa, dicevamo, e allora, come sempre con Radio Corriere, Sole 24 Ore, il collegamento in una giornata, ripeto, un po' strana oggi sul fronte del mercato per quello che riguarda l'andamento di borsa, soprattutto a Milano, perché, ripeto, le altre borse meglio sono andate. Dovrebbe essere in collegamento Ceo Condine di Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Ceo. Buonasera a voi. Allora, come mai Milano ha perso un punto percentuale in meno? Ma Milano, diciamo, ha guadagnato un punto percentuale in meno? Sì, Milano è stata negativa per buona parte della seduta, sempre sotto dello 0,2-0,3%. Poi con l'apertura positiva di Wall Street le altre borse hanno consolidato i guadagni, Milano invece è girata semplicemente in positivo, ha chiuso con mezzo punto. E anche tu sottolineavi questo, diciamo, andamento discordante dei finanziari, dei bancari da una parte, i rimbalzi molto decisi di Popolare di Milano e del Monte dei Paschi di Siena, che paradossalmente sono i due istituti che proprio ora si apprestano, comunque stanno iniziando l'iter per gli aumenti di capitale. Ricordiamo tuttavia che la Popolare di Milano, per esempio, da inizio aveva perso il 35%, quindi non c'è molto da festeggiare per i loro azionisti. Dall'altra parte invece Mediobanca, che perde il 3,5%, anche e anche Azimut è pesante. Sì, diciamo Azimut perde il 2,4% in relazione ai dati di ieri, che hanno visto un deflusso netto da parte dei, diciamo, dei sottoscrittori di fondi per quanto riguarda proprio Azimut. Per quanto riguarda Mediobanca ci sono spiegazioni meno nette, anche se c'è chi fa sottolinea oggi che dal momento che Mediobanca è fondamentalmente il garante dell'aumento di capitale della Popolare di Milano, un aumento molto consistente la cui sottoscrizione è comunque ancora da definire, insomma Mediobanca potrebbe giocare un ruolo significativo anche dal punto di vista finanziario in questa operazione, da qui il calo di borsa. Da qui il calo di borsa, citavi anche altri titoli, hai ragione, oltre al Banco Popolare meno 1,24%, di Assoreme meno 1,33%, e vanno bene oggi in Europa le auto, e non fa eccezione Fiat, diciamo più 2,40%, anche Fiat Camion e Trattori, sì, Fiat Industrial più 2,16%. Un ottimo andamento quello delle auto in Europa, basta vedere anche gli altri titoli automobilistici a Parigi e a Francoforte. Questo ha portato in alto l'intera galassia, insomma possiamo dirlo ancora, degli agnelli, con Fiat che guadagna il 2,4%, Exor più 1,70%, Exor che è la holding di controllo del 1,70%, Industrial del 2,1%. Poi c'è stata la decisione ieri, l'abbiamo anche ricordata, dell'OPEC, ossia l'associazione che riunisce i principali paesi produttori di petrolio, di non alzare, contrariamente a ogni attesa, i livelli di produzione. Doveva farlo perché la Libia esporta chiaramente meno. Questo ha avuto una ricaduta positiva sui titoli energetici in generale. Assolutamente, Eni ha guadagnato l'1,3%, Saipem l'1,2%, anche le utility sono andate molto bene oggi sui mercati, ne è prova che A2A ha guadagnato l'1,1%, insomma il prezzo del petrolio non cala. Saranno felici gli azionisti di Eni e di Enel, un po' meno chi va al distributore. Su questa chiosa partiamo col traffico, visto che ce l'hai chiamato, e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della borsa i migliori e i peggiori oggi. Mercanimon più 15,95%. Ceo, ha ripreso dopo la batosta, lo scivolone di ieri? Sì, ieri era crollata a seguito, insomma, come sappiamo, un titolo piuttosto tormentato. Ultimamente ha diffuso una trimestrale che ha generato allarme tra gli operatori, soprattutto perché gli utili si sono dimezzati dopo queste incertezze sulla performance del business energetico in Brasile, di cui le richieste della Consob. Il crollo di borsa oggi è un rimbalzo tecnico, chiamiamolo così. Rimbalzo tecnico. Invece Telecom Italia Media più 6,60%, smentite le voci di un delisting, ossia di un'uscita dalla borsa del titolo? Sì, qui interpretazioni un po' varie tra gli operatori. È stato smentito il delisting, ma ufficialmente non è stata smentita l'OPA, quindi continuano, il titolo continua a infiammare la speculazione, più 6,5% oggi. Tra Santoro e l'OPA, diciamo, sì. Il titolo si muove. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore. Peggior titolo Fintel Energia Group meno 11,60%, e poi Monti Ascensori meno 6,23%. Volete sapere oggi di Mediaset? Ve la cerco e ve la do. Mediaset che è chiaramente invariata, ecco perché non la vedevo, 000, per cui a 3,52 euro. E cambiamo tema, parliamo di polizze RC Auto. Relazione presentazione annuale dell'ISVAP, infatti oggi l'autorità di vigilanza sulle imprese assicurative, il presidente Giannini accusa praticamente che accusa le compagnie assicurative di scaricare sui prezzi l'onere dei maggiori costi. I prezzi delle RC auto sono aumentati del 4,5% nel 2010, quindi 2 punti più dell'inflazione, del 6,5% nei primi tre mesi, del 6% nei primi tre mesi dell'anno. Non basta, perché oltre a questo l'ISVAP ha denunciato commissioni ancora abnormi delle polizze che le banche fanno sottoscrivere al momento di un mutuo o di un finanziamento. L'aliquota media delle commissioni, infatti, è scesa solo dal 46 al 44%, con punte comunque fino al 79% in un mercato largamente dominato dalle banche, che ne hanno l'80%. Il nostro Jacopo Matano ha intervistato il presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini. Nel 2010 abbiamo avuto medio del 4,5%, nel 2011 nei primi tre mesi del 6%, evidentemente le compagnie, per anche superare le criticità dovute all'andamento tecnico, hanno agito prevalentemente o quasi esclusivamente sulla leva dei prezzi. Questo logicamente non è certamente da noi considerata la strada da seguire, e nel frattempo a dicembre abbiamo presentato a governo e Parlamento una serie di proposte per l'adozione di norme primarie che possano, diciamo così, contribuire alla soluzione del problema, e stiamo continuando a insistere sulle compagnie con ispezioni, incontri, affinché venga migliorata la fase di liquidazione dei sinistri, vengano potenziate. Abbiamo attuato dal 1 gennaio la nuova banca dati sinistri, che è un utile strumento per combattere le frodi. A 13 compagnie è stata avviata la procedura sanzionatoria per elusione all'obbligo a contrarre. Abbiamo emanato norme per ricordare che le disdette massive non possono essere mandate, se una disdetta viene mandata il vecchio cliente deve essere ripreso alla stessa classe dalla quale è uscito al momento della disdetta, naturalmente a tariffa o invariata se è invariata, o nuova se è nuova. Sulla trasparenza e sul controllo sulle assicurazioni è stato emanato oggi un nuovo regolamento di stipendi dei top manager. Che cosa prevede nel dettaglio? Il nostro regolamento non ha la cornice legislativa di quello bancario. Non è previsto un tetto, sono previste delle linee di principio, cioè che ci sia una parte variabile commisurata al rischio, che sia a lungo termine, ci sia la possibilità di recuperarla nell'eventualità che i risultati attesi non siano conseguiti. Un grosso ruolo è attribuito, contrariamente al passato, agli azionisti, all'assemblea degli azionisti e all'organo di controllo interno. Quindi è tutta una serie di principi sui quali noi naturalmente avvieremo contatti, ispezioni con le compagnie, perché nei tempi previsti poter constatare l'adeguamento o meno, insomma, sempre nell'ambito della libertà, naturalmente, non è un regolamento dirigistico, è un regolamento per principi, però sono principi molto importanti, e se ci si adegua penso che il risultato, che consente appunto di evitare quegli eccessi che sono verificati nel periodo della crisi, che abbiamo visto emolumenti pazzeschi, oltretutto sulla base dei risultati conseguiti con una mala finanza, perché poi alla fine quando c'è questo stimolo è stato considerato un fattore importante per agire nel modo non corretto come si dovrebbe. Lo so, vedo molte reazioni sul tema polizze RC auto da un lato, e anche i costi, le commissioni definite abnormi dall'ISVAP, non da noi, per le polizze che le banche fanno sottoscrivere al momento di un mutuo e di un finanziamento. La denuncia dell'ISVAP, c'è una risposta dell'ABI, devo dire che il vicepresidente Giovanni Pirovano dice: siamo pronti a un dialogo sulle polizze per i mutui per soluzioni concrete. Adesso però c'è il GR, poi Emma Marcegaglia sulla riforma fiscale, Silvio Berlusconi sulla riforma fiscale, e anche i giovani imprenditori, non solo sulla riforma fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:09, seconda parte di Focus Economia. Allora adesso arriviamo ai temi anche fiscali, fermo restando che domani, come avviene ormai da alcune settimane, il venerdì, uscirà anche domani la guida dedicata non tanto e non solo ai temi fiscali, ma quanto e soprattutto al risparmio, ossia come proteggere i propri risparmi. Guida del Sole 24 Ore, domani venerdì 10 giugno, in omaggio con il quotidiano, un insetto che fa il punto sugli strumenti finanziari più attrezzati a resistere all'attacco della crisi. Quindi si parlerà dai titoli di Stato alle obbligazioni, dal risparmio postale ai pronti controtermine, fino all'investimento immobiliare. Dicevamo della riforma fiscale, abbiamo sentito nella prima ora le proposte che sono arrivate dai manager italiani, tutti inclusi, non solo, come ricordava il presidente di Federmanager Ambrogioni, gli 84.000 suoi associati. E insomma, il fisco tiene banco. Allora, su questo è intervenuta la Presidente di Confindustria, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, ma Marcegaglia è intervenuto, come ricordavamo in apertura del programma, a margine della presentazione di un rapporto del Centro Studi Confindustria, da cui vorrei partire prima di arrivare poi alla riforma fiscale, in cui farà sicuramente notizia su domani sui giornali il sorpasso di India e Corea sull'Italia quanto a quota di produzione industriale. Ma ci sono anche dei dati interessanti sulla classifica europea delle province più industriali, che maggior produzione industriale realizzano. Che al primo posto resti la Cina non fa quasi notizia, però fa notizia se potessimo mostrare i grafici in radio, vedere quello che è stato la corsa cinese. Pensate che la quota di produzione industriale cinese a livello mondiale era dell'8% nel 2000, è salita al 14% nel 2007 ed è arrivata nel 2010 al 21%. Vuol dire che un quinto di tutto quello che viene prodotto dall'industria al mondo viene prodotto in Cina, un quinto. E il sorpasso cinese sull'America si vede anche da questi dati. Una volta nel 2000 era made in USA un quarto della produzione industriale, adesso siamo quindi 25%, adesso siamo scesi al 15%. Anche il Giappone ha quasi dimezzato la sua quota percentuale a livello mondiale di produzione industriale. La Germania la tiene al 6%, India al 3,7%, Corea al 3,4%, Italia appunto superata da India e Corea al 3,3%, eravamo al 4% nel 2000. 4% a livello mondiale. Dicevo, interessanti anche i settori, soprattutto le province, scusatemi, non i settori, più industrializzate a livello europeo. La prima è Wolfsburg, dove appunto producono le auto i tedeschi, la Volkswagen. E la seconda, o meglio, la prima delle italiane, è Lecco al 61° posto. Le ultime 10 per provincia delle italiane sono l'ultimissima Agrigento, che tra l'altro è una classifica europea, è al 1223° posto, segue Reggio Calabria che è al 1200° posto, la postazione è al numero 1169 della classifica, Trapani 1153 e così via, fino a Palermo che è al 1111° posto. Le prime 10 italiane sono invece Lecco al 61° posto nella classifica europea, Modena 64° posto, Vicenza 67°, poi Bergamo 68°, Reggio Emilia 88°, Brescia al 100° posto nella classifica europea, Mantova al 103° posto, Belluno al 119° e Treviso al 135°, c'è anche Varese al 123° posto. E allora da qui poi nasce il ragionamento su come l'Italia sta uscendo dalla crisi industriale. Emma Marcegaglia, Italia fortemente colpita ma ancora forte, stiamo uscendo però dalla crisi meno bene dei nostri concorrenti. Noi stiamo uscendo dalla crisi con meno bene, diciamo, gli altri paesi. Noi siamo ancora a livello di produzione industriale meno 17% rispetto ai picchi del 2008. La Germania, per esempio, è meno 4%. Però quello che noi oggi vogliamo dire è che bisogna avere grande attenzione al sistema manufatturiero in Italia. Oggi il sistema industriale italiano produce il 30% circa della ricchezza del paese, del benessere, dà lavoro a circa il 30% dell'occupazione generale, fa il 78% delle esportazioni, quindi è dimostrato che là dove c'è un maggiore tasso di industrializzazione c'è anche più benessere, c'è più PIL. Quindi bisogna avere grande attenzione al sistema manufatturiero, aiutarlo a essere più competitivo, quindi il tema delle tasse, il tema delle semplificazioni, il tema delle liberalizzazioni, i temi sui quali noi richiamiamo continuamente sono fondamentali. Certamente c'è un grande lavoro da fare anche da parte delle imprese e oggi noi qui proprio vediamo anche, ragioniamo anche sulle strategie, diciamo, delle imprese per essere più competitivi, quindi di aumentare la dimensione, di investire molto di più in ricerca e innovazione, internazionalizzarsi molto di più. Del fisco abbiamo già detto, della riforma fiscale, caustico anche il giudizio del DM Marcegaglia sullo spostamento dei ministeri al nord, non mi sembra un vero problema, non è questo il problema dell'Italia. Sull'uscita della Fiat dalla Confindustria, ipotesi circolata oggi su alcuni giornali, Emma Marcegaglia, microfono della nostra Alessandra Schepis, ha detto: non mi sembra che sia una questione di, non mi risulta che sia una questione di ore. A noi non risulta che sia una questione di ore, come sapete è in corso un ragionamento. Noi quello che diciamo è che è quello su cui stiamo lavorando molto. Noi chiameremo a giorni i sindacati per discutere insieme una proposta sulla rappresentanza e sulla cosiddetta esigibilità dei contratti. Cioè noi vorremmo che accanto alla riforma del 2009, e ci tengo anche qui a sottolineare che anche la Commissione europea nel suo giudizio dice che questa riforma è una riforma molto buona, noi accanto alla riforma del 2009 che ha spostato il baricentro sui contratti aziendali, oggi dobbiamo completare questo disegno attraverso appunto un accordo sulla rappresentanza che dica sostanzialmente che se un'azienda fa un accordo con la maggioranza dei sindacati, questo accordo sindacale deve poi valere per tutti i lavoratori. Ed è adesso arrivata una nota sempre di Confindustria, anzi no, è un'indiscrezione, non è una nota, quindi chiedo venia, ma da quanto risulta anche l'agenzia ANSA, Confindustria invierà lunedì una lettera ai sindacati per fissare un incontro a stretto giro proprio sui temi che adesso ricordava la Presidente di Confindustria, quindi la rappresentanza e la esigibilità dei contratti. C'è il traffico e poi restiamo in tema di impresa, ma di giovane impresa. Domani infatti i giovani imprenditori iniziano il loro appuntamento annuale a Santa Margherita Ligure. 349-238-6666 per i vostri sms. Siamo domani a Santa Margherita Ligure, il 41esimo appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria, per parlare del loro futuro, giovani, guardare lontano per vedere oltre. Una nota di servizio, Focus Economia come sempre sarà in diretta domani da Santa Margherita Ligure. E allora cerchiamo di capire a quale futuro guardano i giovani, non solo quelli di Confindustria. Riprenderanno parte Giulio Tremonti, ministro Giulio Tremonti, il ministro Giorgia Meloni, ma anche il direttore generale della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni, il presidente dell'Istat Enrico Giovannini e poi il numero uno di Unicredito Federico Ghizzoni, il presidente di Eni Giuseppe Recchi, Pietro Scott Iovane, numero uno di Microsoft Italia. Lavori che verranno chiusi dalla presidente Confindustria Emma Marcegaglia, ma siamo in collegamento con chi fa gli onori di casa, quindi il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, neo presidente da tre mesi eletto, Jacopo Morelli, buonasera. Buonasera, addirittura da poco più di 30 giorni eletto. 30 giorni eletto, non tre mesi, ha ragione, il tempo passa, anche perché l'abbiamo avuto ospite quando fu... Il tempo fugge, sì, però il tempo per un giovane, così entriamo subito nel tema, è un tempo che più che fugge delle volte viene sprecato, e mi riferisco ai dati ultimi che abbiamo sulla disoccupazione giovanile. Tra i 15 e i 24 anni siamo al 28% di disoccupati, contro la media del paese dell'8%. In alcune aree del Mezzogiorno si toccano punte del 40-45%, e poi c'è il fenomeno dei NEET, cioè Not in Education, Employment or Training, quelli che non lavorano, non studiano e non stanno nemmeno facendo formazione. Sono 2 milioni in Italia. Tra l'altro, i laureati tra i 25 e i 34 anni, solo il 66% lavora, in Europa la media è dell'84%. E chiudo con un dato che spesso ricordiamo: in Italia, a differenza di altri paesi europei, la disoccupazione è più alta tra i laureati, o meglio, l'occupazione è più bassa rispetto ai diplomati. Praticamente siamo a un 69,5% per i diplomati tra i 25 e i 34 anni e un 66% per i laureati. Voi il tema l'avete molto chiaro, mi sembra, Morelli, perché insomma è tutto sui giovani, si chiama proprio giovani, guardare lontano per vedere oltre, al di là della retorica del titolo. Voi parlate di egoismo generazionale. Assolutamente sì, perché in Italia sono state prese delle decisioni francamente che hanno sacrificato una generazione, in particolare quelle degli attuali giovani, a vantaggio di posizioni di rendita. Insomma, basti pensare allo scandalo delle baby pensioni, tanto per citarne una. Si parla spesso, lo dicono spesso gli imprenditori, dei limiti delle riforme a costo zero possibili per il paese, tra le quali viene spesso citata la riforma della burocrazia, cioè lo snellimento burocratico, le 280 ore perse in adempimenti burocratici per ogni azienda all'anno, contro una media europea che viaggia sulla metà e in alcuni paesi anche a un terzo. La burocrazia incide anche sul il giovane imprenditore, quello che deve nascere. Mi viene in mente soprattutto il caso delle start-up, cioè delle neo imprese, non di imprese che già esistono. Ma incide, e drammaticamente. Guardi, le faccio un esempio concreto. L'altro giorno partecipavo a un dibattito, tra l'altro con un collega italiano che ha un'attività nella Silicon Valley, e raccontava che quindi in California lui è stato in grado di aprire la sua impresa in 30 minuti, ripeto, in 30 minuti su internet, quindi senza muoversi, fare code negli uffici, al costo di $600. Mi dica se questo in Italia è possibile. Beh, un po' come in Italia, no? Assolutamente, non possiamo deflettere e accontentarci. Sì, appunto, insomma, dicevo ironicamente un po' come in Italia, visto che sono 230 ore all'anno solo per gli adempimenti burocratici di chi già è nato, figuriamoci di chi deve nascere. Giovani e banche, sappiamo che spesso il rapporto tra le banche e i giovani è un rapporto, insomma, dialettico, se non difficile. È chiaro che chi inizia un'attività non ha garanzie spesso, altrimenti non andrebbe in banca, però le banche hanno delle volte un modo di concedere il credito ancora legato, e con Basilea 3 forse ancora di più, legato a diciamo la solidità del richiedente. Voi su questo chiederete, anche visto che avete il numero uno di Unicredito, una maggior fiducia da parte del mondo bancario, o altri modi per valutare il progetto di impresa quando uno è giovane e dietro non ha il papà che garantisce per lui? Ma guardi, la fiducia, lei lo sa benissimo, più che chiederla bisogna conquistarsela sul campo. Quindi da un lato i giovani imprenditori, chi si accinge ad avviare un'impresa, devono presentare progetti ben fatti, solidi, credibili, e dall'altro ci vogliono funzionari e dirigenti delle banche, e questo spesso manca, in grado di andare al di là degli aspetti contabili, perché è chiaro che un'impresa che viene avviata non ha uno storico, ma deve essere valutato sulle prospettive e prima di tutto sulle persone che porteranno avanti l'impresa. E su questo c'è molto da fare sul sistema bancario italiano, ma noi giovani imprenditori stiamo già collaborando con i principali istituti di credito italiani proprio in questa direzione, e stiamo avendo anche dei primi riscontri molto positivi. Un'ultima domanda, un po' di autocritica, perché insomma vedo anche i messaggi al 349-238-6666 che dicono: sì, ma insomma ci sono 2 milioni di NEET o NEET perché non hanno voglia di mettersi in gioco, non vogliono fare i lavori che invece fanno gli extracomunitari, vanno meno all'estero di una volta, insomma sono un po' pigri, viziati, abituati bene. No, guardi, io alla definizione dei giovani come tra virgolette bamboccioni non ci sto, anzi, posso dire però che tutti i giovani italiani devono comportarsi molto di più da cittadini consapevoli, quindi anche esercitare in maniera critico i loro diritti ma anche i loro doveri, piuttosto che da figli desiderosi della protezione dei genitori. Insomma, tutto quello che c'è da conquistare bisogna non aspettarlo dall'alto, ma tirarsi sulle maniche e andarselo a prendere con le nostre energie, la nostra capacità, la nostra intelligenza. E dare anche un calcio ai vecchi? Non so, nel senso che i cambi generazionali non sono mai avvenuti perché qualcuno si alza dalla sedia e vi dice: prego, vieni, prendi tu il posto mio che io sono stufo. Di solito o c'è una spinta dal basso o c'è una dimostrazione, c'è un po' più di grinta. E se posso fare una critica a Morelli, ne parliamo spesso di giovani, ci mancherebbe, però, e non mi riferisco in questo caso solo ai giovani di Confindustria, però ai giovani in generale, obiettivamente ogni tanto c'è più la ricerca di un compromesso generazionale che la voglia di andare alla rottura generazionale, non trova? Guardi, me lo dirà domani dopo aver ascoltato le nostre tesi introduttive. Noi certamente non siamo qui per avere del consenso del così gratuito, non siamo neanche per il conflitto, per il conflitto. No. Pensiamo però oggettivamente che si debba fare, se possibile, un accordo per cui alle persone, come avviene nel resto delle democrazie avanzate, più giovani, guarda, le do anche un limite piuttosto alto, entro i 50-55 anni si lasciano ruoli esecutivi di sopra, si diano soprattutto, laddove ci sono grandi capacità, ruoli importantissimi, se vuole, di mentoring, di coaching, di insomma persone che possono fare da supporto ai giovani, ma la parte esecutiva e operativa deve essere il più possibile lasciata ai giovani. Volete le quote giovani? L'economia come impedita, naturalmente. Volete le quote giovani? No, assolutamente, guardi, le quote lasciamole ai Panda e a qualche altre. Quindi neanche le quote rosa le interessano molto, mi sembra di capire. Assolutamente, ci interessano più che altro dei provvedimenti intelligenti che vadano a riequilibrare, perché in questo momento c'è una simmetria pazzesca, inaccettabile. Soltanto un cieco o una persona che diciamo se vuole vedere può negare questa situazione, delle disparità incredibili a generazione e generazione, e a volte anche sul trattamento uomo-donna. Morelli, grazie, grazie al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, in bocca al lupo per domani. Focus Economia termina qui da Sebastiano Barisoni, domani Focus Economia in diretta da Santa Margherita Ligure. Per ora da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.